Ragazzi, serata Recco special, facete veramente paura. Dici Roy? Yeah. Bagna. Bagnazza? Bagna, sempre bagna. Bagna forata. Protezioni bagna. La maglia col dito sopra.